È giovedì 15 novembre, le aperture, intanto il Sole 24 Ore apre sulla legge di stabilità che nella notte è stata approvata, ci sono dunque modifiche anche che non trovano spazio sui giornali perché si è andata avanti fino alle 5 di questa mattina. Detrazioni sui figli e IRAP, ecco le novità, questo è il titolo di apertura del Sole. Per il Corriere della Sera, la politica, lite sul voto, rischi di crisi, Alfano, si anticipino le politiche, Bersani decide il Quirinale. E poi tutti gli altri giornali praticamente aprono sulle violenze ieri di piazza. Crisi, la rabbia in piazza, così Repubblica. Il Fatto Quotidiano, popoli contro tecnici, l'altra Europa si rivolta. Tutti i titoli sono in genere con uno sfondo di fotografie di scontri. La Stampa, guerriglia ai cortei anticrisi, l'Unità, i violenti contro lo sciopero, il Giornale, volevano il morto e Grillo sta con loro, il Messaggero, Roma, un giorno di guerriglia, il Secolo XIX, la guerriglia degli studenti, Pubblico invece mette la foto di un ragazzo col volto insanguinato e il titolo è Giù le mani dai ragazzi. Libero invece apre sulle pensioni da qualche giorno, sulla truffa dei ricongiungimenti, gli struzzi delle pensioni, questo è il titolo. Mentre anche il Giorno, rivolta, e Avvenire invece su un fatto che segue Avvenire da tempo, vale a dire i roghi tossici, soprattutto in Campania, lotta ai roghi tossici, c'è un commissario, mossa del ministro Cancellieri, questo è il titolo di prima pagina di Avvenire. Voglio però partire con questa intervista che in realtà non ho sotto mano perché è stata anticipata dalle agenzie su 7, il settimanale Il Corriere della Sera, che uscirà in edicola domani. Ma Libero prende uno spunto in un'intervista a Giuliano Amato, che appunto apparirà su 7. Io ve la leggo come la propone Libero, poi bisogna attendere domani l'intervista di 7, la risposta di Giuliano Amato per capire, perché se fosse vero certamente un po' di stupore lo crea. Amato vuole vitalizi anticipati, questo è il titolo di Libero in prima pagina con l'articolo di Nino Sunseri. Senza vergogna, un aiutino di Stato per i poveri parlamentari costretti al prepensionamento, 2 anni di anticipo sul vitalizio. Questa è la richiesta di Giuliano Amato, mentre il povero deputato costretto a lasciare la dorata poltrona per scadenza dei termini cerca un lavoro, una cassa integrazione molto speciale per i travette del voto, costretti a uscire da Montecitorio e Palazzo Madama per fine contratto. È la proposta che viene da Giuliano Amato in un'intervista a 7. Il dottor Sottile, a dispetto delle sue 74 primavere, ricorda Libero, a dispetto della sua pensione 31.000 euro al mese, non ha voglia di ritirarsi ai giardinetti, il governo Monti lo ha tirato fuori dalla naftalina ed eccolo qui, dice Giuliano Amato, in Italia ora tutti vogliono parlamentari giovani e che facciano al massimo 2 mandati e tutti sono indignati per i vitalizi e pretendono che vengano elargiti solo al compimento del 65 anni di età. Un trentenne eletto in Parlamento, dopo 2 mandati, cioè a 40 anni, cosa dovrebbe fare mentre aspetta di compiere i 65 anni? L'esodato di Stato? Ecco, questa è la riflessione che ha fatto Giuliano Amato, affidata a 7. L'intervista completa poi ci sarà domani. E da qui, insomma, Libero trae la conclusione: Amato, senza vergogna, aiutiamo gli ex deputati. Ecco, pone questo problema Amato: se davvero si mette un limite ai 2 mandati, un deputato entra a 30 anni in Parlamento, quindi a 40 anni è già fuori dal Parlamento, ma per il vitalizio deve aspettare 65 anni. Cosa fa per 25 anni? L'esodato di Stato? Vi sento già in macchina che fibrillate. Lavora! Torna a lavorare! Questa comunque è la posizione di Giuliano Amato che Libero mette in prima pagina. Voglio segnalarvi anche quest'articolo che viene pubblicato da Repubblica. In realtà è un'inchiesta del New York Times. John Tagliabue è l'autore, che va a Stoccolma per raccontare l'asilo senza lei e lui. Tutti i bimbi sono hen, cosa vuol dire è spiegato poi nell'articolo. Stoccolma, in una stradina della città vecchia, c'è un asilo con la facciata ocra dove gli insegnanti evitano l'uso di pronomi personali, lui o lei, e preferiscono chiamare i 115 bambini amici. I riferimenti al sesso maschile o femminile sono tabù, e spesso vengono sostituiti dal pronome hen, termine neutro diffuso negli ambienti gay o femministi. Si chiama Egalia, ecco l'asilo che ha abolito maschi e femmine. E racconta John Tagliabue, poi va avanti un'intera pagina, pagina 21 di Repubblica. Nella piccola biblioteca della scuola sono presenti poche fiabe tradizionali come Cenerentola e Biancaneve con i loro rigidi stereotipi maschili e femminili, però ci sono molti racconti in cui i protagonisti sono genitori single, figli adottivi o coppie dello stesso sesso. Le bambine non vengono spinte a giocare con cucine e giocattolo e i mattoncini del Lego non sono considerati giochi solo per i maschi. Quando un alunno si fa male, gli insegnanti lo confortano come farebbero con le bambine e tutti possono giocare con le bambole, alcune delle quali sono di colore. Ecco, questo è lo spirito, questo così inizia il racconto di John Tagliabue del New York Times, riproposto da Repubblica, di Egalia, quest'asilo dove non si fanno riferimenti di genere, al genere sessuale, i bambini vengono chiamati amici, dove non, quindi è bandito lui, lei, è permesso solo questo pronome neutro, hen, dove non ci sono giochi separati, giochi per i maschi e giochi per le femmine, ognuno può divertirsi con ciò che vuole, dove le coccole vengono distribuite parimenti, sia per i maschi sia per le femmine, se per esempio si fanno male, se prendono una botta, dove appunto le fiabe non sono quelle tradizionali, quelle con la principessa, la principessina, il principe azzurro, ma libri nei quali si raccontano storie di genitori single, bambini adottati, coppie gay. Ovviamente c'è stata molta contestazione, c'è chi dice è un progetto troppo sperimentale per l'Italia, troppo esagerato, annullare addirittura per alcuni anni la differenziazione di genere. Racconta Repubblica che ci sono altri precedenti, banalmente dal 2012 il grande magazzino Harrods non mette più giocattoli per maschi o femmine, ma li mette tutti insieme. Ma ci sono anche varie coppie nel mondo, una è successo a Toronto, una a Cambridge qualche anno fa, che hanno deciso di crescere i primi anni del proprio figlio o figlia senza svelarne il sesso, in maniera neutra. Non lo so, per carità, bisogna leggere, approfondire. A me pare abbastanza una follia così raccontata come viene raccontata, ma forse avranno ragione lì in Svezia con questo progetto Egalia, ecco l'asilo che ha abolito maschi e femmine. Lo trovate su Repubblica in prima pagina e poi continua a pagina 21 e noi ci fermiamo qualche minuto, riprendiamo dagli scontri di piazza, dalla politica, dall'economia. 24 mattino. Allora, eccoci qua. Partiamo da che cosa? Dalla legge di stabilità, con le novità che peraltro sono arrivate anche nella notte. Si è lavorato in Parlamento, alla Camera, per l'approvazione della legge di stabilità e con le modifiche. È una legge sostanzialmente modificata rispetto a quella che è stata prevista dal governo poi nell'iter parlamentare. Oggi ancora sul Sole 24 Ore c'è uno speciale con tutte le modifiche. Le più importanti sono le detrazioni per i figli: aumentano a 1.220 euro gli sconti IRPEF alle famiglie con i bimbi sotto i 3 anni, mentre si fermano a 950 euro per quelle sopra i 3 anni, una cifra che viene aumentata di 400 euro in caso di portatori di handicap. Questa è in sostanza la novità più importante della lunga seduta notturna dalla Commissione Bilancio alla Camera, che ha partorito nuove correzioni al disegno di legge di stabilità. Via libera anche a che cosa? Un fondo per le popolazioni alluvionate, 250 milioni, un parere contrario del governo messo su questo emendamento, ma è stato approvato, 250 milioni per la recente alluvione. Confermato il pacchetto IRAP dal 2014, ma il fondo riservato ai professionisti da 540 milioni in 2 anni è destinato a saltare al Senato, perché questa è l'approvazione alla Camera, poi ci sarà il Senato. Insomma, ci sono tante novità che trovate appunto sul Sole 24 Ore, soprattutto per quel che riguarda le detrazioni ai figli. Tra l'altro, il Sole che cosa fa? Proprio un dizionario delle tasse, lo trovate a pagina 5, dalle aliquote IVA, le attività estere, il cuneo fiscale, i figli a carico, le pensioni di guerra, sulle quali c'è stato un dibattito molto forte, perché l'esenzione dell'IRPEF per le pensioni di guerra non si applicherà se gli emolumenti verranno percepiti a titolo di reversibilità da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro. Ci sono tutte le novità riguardo punto per punto della nuova manovra del disegno di legge di stabilità. Le trovate appunto sul Sole 24 Ore. C'è stato anche un annuncio sulle modifiche che ci saranno alla Tobin Tax. Nella notte, attorno alle 4:30, l'ha annunciato la Commissione e anche il sottosegretario all'economia Polillo. Un emendamento eviterà la fuga degli operatori all'estero, deroga i bilanci per i comuni colpiti dal maltempo, ma soprattutto le modifiche sulla Tobin Tax arriveranno al Senato. L'imposta sulle transazioni finanziarie potrebbe essere corretta. Questo ha detto il sottosegretario Polillo. Questo è per quel che riguarda le novità sul fronte fiscale del disegno di legge di stabilità. Ieri però è stata una giornata di guerriglia vera e propria, un po' in tutte le città, Roma soprattutto. Ecco qui come viene proposta dai giornali. Ci sono giornali, come succede in questi casi, c'erano una manifestazione degli studenti, c'erano scioperi, c'erano manifestazioni che si sono svolte in maniera sostanzialmente corretta, poi qualche infiltrato, probabilmente qualcuno che ha approfittato dei cortei per lanciare pietre eccetera. A quel punto la situazione è degenerata. Guerriglia studenti polizia, tra l'altro c'è l'articolo di Marco Ludovico sul Sole 24 Ore dell'allarme del Viminale del Ministero dell'Interno, che parla di cortei destrutturati, questo è il termine utilizzato, che spaventano il Viminale, tanto che sul Corriere della Sera l'allarme del Viminale è così, cioè si teme che quello che sia successo ieri sia solo l'antipasto rispetto a cortei più violenti che si prospettano nelle prossime occasioni, nei prossimi mesi. Ecco come la pongono i giornali. C'è chi magari vuole mettere in risalto immagini, fotogrammi, come fa il Fatto Quotidiano, per esempio, parlando di pestaggi veri e propri della polizia, pugno duro della polizia. C'è una fotosequenza di un poliziotto che colpisce da dietro alla testa con il manganello un ragazzo che sembra in quel momento inerme, passeggiare. Ci sono dei video anche sui siti, vedete qui la gente che sferra un calcio al volto di un ragazzo a terra. Il Corriere della Sera invece a pagina 3 intervista il poliziotto circondato e bastonato a Torino. Si presenta, e c'è anche una foto, incerottato, gli gira la testa, Massimo contenta. Questo è l'inizio dell'articolo di Andrea Galli che trovate a pagina 3 del Corriere. Gira la testa, Massimo contenta, non è soltanto per le botte, appena visto il mondo cappottarsi, non uno qualunque, ma proprio il suo di mondo. Un fumogeno per sorprendere e confondere, il passo ritmato sull'asfalto che aumentava di intensità, l'avvicinarsi lesto e compatto di scudi e caschi. Sembrava una carica di polizia, poi però è finita con un pestaggio, manici di piccone e mazze da baseball che precipitavano, lui e 13 colleghi circondati, isolati sotto l'assalto di gente di ben altra portata, almeno 60 e di ben altra età, forse perfino quindicenni. Contenta, 36 anni fa l'agente, agente scelto per la precisione al commissariato di Barriera Nizza, quartiere popoloso, zona del Lingotto. E i poliziotti stavano in corso in Inghilterra davanti agli uffici della provincia quando appunto c'è stato questo attacco. A Contenta hanno frantumato il casco, se l'è cavata con contusioni, abrasioni tra viso e un braccio, una manciata di giorni di prognosi. Gli agenti sono riusciti a difendersi e respingere la sortita. Ma insomma è stata scena di guerriglia, poi ognuno la vede come vuole. Il Manifesto, per esempio, a pagina 2 parla così: scuola di polizia a passo di carica. Carlo Lania racconta: basta poco per rovinare una bella giornata, basta che qualche decina di ragazzi, invece di incassare il successo politico di una manifestazione con quasi 100.000 persone, decida di rovinare tutto indossando le solite felpe scure, i soliti caschi neri, per poi coprirsi il viso con un fazzoletto. Succedeva ieri verso le 2 del pomeriggio in pieno centro di Roma, all'altezza di Ponte Sisto tra Trastevere e Via Giulia. In un attimo la prima fila del gigantesco corteo partito in mattinata con studenti medi, universitari, viene scalzata e sostituita da 4-5 file di manifestanti coi caschi neri. Impossibile non notare il cambiamento. Quello che accade da quel momento e per le successive 2 ore non è neanche la cronaca di una guerriglia urbana, ma solo un resoconto triste di una serie di scontri tra un gruppo minoritario di studenti con polizia e carabinieri. Sassi, bombe carta, bastoni da una parte, lacrimogeni e manganelli dall'altra. L'Unità invece mette in risalto il fatto che Beppe Grillo sia l'incendiario, così scrive e titola l'Unità pagina 5. È guerra, agenti, unitevi alla protesta. È una guerra non ancora dichiarata tra le nuove generazioni, una in divisa, una in maglietta, mentre i responsabili stanno a guardare sorseggiando il tè. Così Beppe Grillo sul suo blog. Soldato blu, non ti senti preso per i fondelli a difendere l'indifendibile, a non schierarti coi cittadini? Togliti il casco, abbraccia chi protesta e cammina al suo fianco. Sarà un atto rivoluzionario. Così Beppe Grillo sul suo blog. Mentre il ministro Riccardi, intervistato dal Messaggero a pagina 5, in qualche modo risponde a dire: temo chi solidarizza con i violenti. L'intervista di Mario Aiello la trovate a pagina 5 del ministro Riccardi. Beh, certo, è stata una scena molto molto molto forte, con anche le sfide dei video, i contestatori che dicono: ecco come i carabinieri, i polizia hanno picchiato, e il controvideo della polizia di Stato: vedete come ci hanno lanciato le pietre. Vabbè, questo è successo. Mentre la politica ci si batte, ci si scontra per l'Election Day. Il Popolo della Libertà dice: o si accorpano al 10 febbraio le elezioni per le regionali, quindi anticipando la fine della legislatura delle politiche e facendo votare insieme alle regionali, altrimenti perdiamo tra l'altro 100 milioni di euro, questa è la quantificazione fatta dal segretario del PDL Alfano, oppure siamo pronti alla crisi, cioè far cadere il governo Monti. Certo, qualcuno fa notare che l'anno scorso, 2011, quando si dovevano accorpare referendum e amministrative, al governo c'era il governo Berlusconi. In quel caso le motivazioni del risparmio previsto non furono addotte dall'altra parte, da chi voleva il referendum, e invece chi era al governo diceva: ma no, la democrazia è una cosa diversa, i referendum sono diversi dalle elezioni, non si possono accorpare. E i risparmi vengono citati, i possibili risparmi, evidentemente quando fa comodo. Ma comunque da qui ripartiamo, dopo le informazioni sul traffico, la pubblicità. Allora, il Popolo della Libertà minaccia: ci vuole l'Election Day, dobbiamo accorpare tutto al 10 febbraio, quando si voterà per le elezioni in Lombardia, Lazio e Molise. Lì si vota anche alle politiche, dunque anticipiamo la fine della legislatura, così risparmiamo 100 milioni di euro. Altrimenti si decide entro venerdì, altrimenti possiamo staccare la spina a questo governo. Bersani risponde: non si sostituisca il capo dello Stato, è lui che deve sciogliere le Camere, e quindi decida Napolitano. Interessante però è capire il retroscena di questa schermaglia. Claudio Tito su Repubblica spiega qual è la strategia di Berlusconi. Sarebbe, secondo Claudio Tito, questioni di vita o di morte per il partito. Berlusconi al bivio, rischiamo di morire. Di Claudio Tito su Repubblica: questa volta è una questione di vita o morte. Se accettiamo questa situazione, il centrodestra scomparirà. Queste parole attribuite a Berlusconi. Possiamo staccare la spina a Monti già la prossima settimana, se non cambiano idea. Perché? Perché le minacce più volte ripetute di staccare la spina, questa espressione brutta ma riferita alla politica, in passato non hanno preoccupato più di tanto, ma scrive Repubblica, questa volta Berlusconi fa sul serio, anche perché ha riunito i suoi fedelissimi davanti a un perplesso, depresso e allibito Angelino Alfano e a un sorpreso Denis Verdini. Ha detto Berlusconi: se non si fa l'Election Day ci asfaltano, noi perdiamo sia la Lombardia che il Lazio, l'effetto trascinamento ad aprile ci annienterà, e allora è meglio staccare la spina, fare la crisi di governo per noi è un'occasione. E poi, rivolgendosi ad Alfano con un sorrisino beffardo, questo è un retroscena raccontato da Repubblica, Berlusconi avrebbe detto: e in questo modo ci liberiamo anche di questa cantonata delle primarie. Dunque, secondo la strategia di Berlusconi per Repubblica, staccando la spina al governo Monti, si fa questa scena per cui si segna un distacco di fronte all'elettorato di centrodestra, si fa vedere un distacco da queste politiche di governo, si accorpa tutto e dunque si risparmiano dei soldi, 100 milioni secondo il centrodestra, e in più Berlusconi così si libera anche di queste primarie che certo non ha mai amato. L'idea del Cavaliere, affondare in un colpo governo e primarie, è infatti il titolo di Libero a pagina 10. Risponde però il ministro all'interno, Anna Maria Cancelleri, intervistata da Fiorenza Sarzanini per il il Corriere della Sera, pagina 9, racconta: la scelta è stata fatta sulla base di elementi tecnici e giuridici. Se ci sono motivi politici per prendere decisioni diverse, noi ci adegueremo, ma devono avere fondate motivazioni. Dunque, dice Cancellieri, scelta tecnica quella di non accorpare tutto al 10 febbraio. E qual è la scelta tecnica? La spiega così. Inizialmente avevamo pensato a fare il 27 gennaio le regionali, ma ci siamo resi conto che le candidature andavano presentate entro il 29 dicembre, l'ammissione di nuovi documenti entro il 31 dicembre, quindi eravamo obbligati a tenere gli uffici pubblici fino a tarda sera aperti la notte dell'ultimo dell'anno. Poi c'era la possibilità del 3 febbraio, sempre delle regionali, ma il termine per la presentazione delle candidature sarebbe scaduto in un altro giorno di festa, il 6 gennaio. In realtà l'unica data utile per votare alle regionali era il 16 dicembre, ma c'è apparsa davvero troppo vicina. E alla domanda, ma è possibile che il vero Election Day si farà proprio il 10 febbraio, accorpando tutto anche le politiche? Non mi risulta, risponde il ministro. In ogni caso sarebbe una decisione che spetta non a me, ma al capo dello Stato, Giorgio Napolitano. E riguardo ai risparmi, dice, e rispondendo in qualche modo ad Alfano, abbiamo fatto i calcoli, in realtà il risparmio per un Election Day è pari a 50 milioni, non 100. Certo, buttali via. Però, insomma, questo per le cifre. A proposito di primarie, c'è da registrare che secondo anche il giornale si allontanano le primarie. Berlusconi convince Alfano. Tra l'altro Berlusconi che andrà in TV. Settimana prossima tornerà in TV. Io ho twittato sul mio profilo Alino Milan, i bookmakers non accettano neppure scommesse sul fatto che accetterà, che sceglierà Porta a Porta per andare. Però, insomma, secondo voi dove andrà? Lo vedremo poi settimana prossima. Roberto Calderoli fa un'intervista alla Stampa a Mattia Feltri e parla del famoso Porcellum, la legge che lui ha fatto. Per la verità lui dice fu inventata da Sartori. Questa definizione per me è sempre stata la porcata, ecco, così è meglio, non latino ma italiano puro. Io l'ho definita una porcata, ma ora vi racconto come andò. Si toglie qualche sassolino Calderoli a dire: fu una legge figlia del ricatto di Casini, che voleva il proporzionale stile Prima Repubblica, e se non gliel'avessimo dato non avrebbe votato la riforma costituzionale. Cedemmo a questo ricatto. Poi la legge fu stravolta perché era un'ottima legge e proprio Casini ne rimase fregato. Ottima legge? Chiede Mattia Feltri. Vi spiego, avevo messo una soglia per il premio di maggioranza al 40%, ma sapete chi tolse la soglia? Berlusconi, perché voleva il premio a tutti i costi. E le liste bloccate? Non c'erano. Le volle Fini, perché diceva che prendeva soprattutto voti al sud e non si fidava delle preferenze. Vabbè, insomma, un Calderoli dunque dice che la mia legge era ottima, poi fu stravolta da un ricatto di Casini, da Berlusconi che mise il premio di maggioranza e da Fini che volle le liste bloccate. Come dire, io avevo fatto un lavoro perfetto, ma la porcata l'hanno fatta loro. E il nome porcata poi è rimasto a questo Porcellum. Tra l'altro c'è davvero la parte più spassosa, non dell'intervista ma a corollario, è: vi ricordate che io questa settimana ho iniziato dicendo e ridendo che il Corriere della Sera citava questa come la settimana decisiva per la riforma della legge elettorale? Siamo arrivati alla 91esima settimana decisiva. Ora Carlo Vizzini, presidente della Commissione Affari Costituzionali, ha detto: no, questa settimana i lavori sono fermi, si riprenderà settimana prossima, ma in una settimana si potrebbe fare tutto. Si intende nella 92esima settimana decisiva, che finirà, questo anche i bookmakers non accettano scommesse, in un nulla di fatto, cari ascoltatori. Così è, credo. Ci dobbiamo fermare, c'è il giornale radio, poi avremo ospite Bruno Tabacci alle 8:15, candidato alle primarie del centrosinistra, e poi Sallusti e Mazzatorta, il senatore leghista che ha proposto l'emendamento, quello per il carcere ai giornalisti. Giornale radio.